Esisteva un certo scrittore che aveva smarrito tutte le sue parole da scrivere. Non gliene era rimasta nemmeno una durante la notte. 15. L'orfano sognava le sue lettere che zirlavano da un aeroplano giallo e rossiccio, altre volte dei tratti limpidissimi, assai corsivi e fluenti, animati da un polso misterioso, che mutavano in forma e in direzione, fino a svanire o colare a picco, come rondoni appena uccisi. Una sassaiola notturna in un prato di panna viola, le strisce di un piccolo circo nell'ora del tramonto.